L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio, nuova puntata dell'altro pianeta. Oggi però più che di pianeti parliamo di stelle, anzi in particolare di uno stellone. Parliamo di sole e più precisamente parliamo di fotovoltaico che, come ci hanno detto negli ultimi giorni i dati di Confartigianato, è diventata, idroelettrica a parte, la prima delle energie rinnovabili in Italia. Approfondiremo i dettagli nella trasmissione di oggi, però ora, prima di tutto, parliamo di qualcosa, di uno spunto che ci arriva dalla contemporaneità, dalle novità che riguardano il settore, perché entra in vigore il 1 luglio una normativa che riguarda il fotovoltaico e ci aiuterà a capire di che si tratta Giuliano Maddalena, che è direttore dei consorzi Ecoped Ridomus. Bentornato con noi. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, dal 1 luglio cosa cambia per chi lavora nel settore del fotovoltaico? Dal 1 luglio cambia il fatto che un decreto ministeriale dello sviluppo economico entra in vigore, il cosiddetto quarto conto energia, e per quanto riguarda il riciclo dei pannelli fotovoltaici, per la prima volta si comincia a parlarne, no? Quindi questo decreto chiede ai produttori che rilascino un certificato nel quale attestano la loro adesione a un consorzio o a un sistema europeo che sia in grado di riciclare questi moduli fotovoltaici al termine della loro vita utile. E quindi questa è una novità. È significativo anche del fatto che ormai c'è un problema di smaltimento, cioè ci sono tanti moduli fotovoltaici, bisogna pensare al loro futuro. Sì, assolutamente. In generale l'essere umano nella società moderna si sta sempre di più orientando al fatto che quando mette sul mercato qualche cosa comincia a pensare al riciclo di questo qualche cosa, no? Lo ha fatto veramente con tante cose, con gli imballaggi, ultimamente con i pneumatici, io arrivo dai Rai, lo sapete, l'ho fatto con le batterie, adesso lo sta facendo anche con i pannelli fotovoltaici, anche se non in maniera completa, poi magari avremo modo di... Sicuramente, anzi lei è qui per questo, per anche affrontare quelle parti un po' più critiche, un po' più oscure, però insomma è un dato di fatto che per fortuna questa volta non si è aspettato di avere cumuli di pannelli a fine uso, ma si è intervenuti un pochino prima, ecco, che questi diventassero un problema. Sì, il pannello fotovoltaico, soprattutto in Italia, è relativamente nuovo, no? Nel senso, è stato già utilizzato negli anni passati, ma il boom c'è stato negli ultimi 4-5 anni. Ovviamente questi pannelli diventeranno un rifiuto in maniera massiccia tra 15-20 anni. Poi bisognerà anche vedere quale sarà l'atteggiamento del detentore del pannello tra 15 anni, no? Nel senso, noi oggi diciamo tutti che il pannello fotovoltaico ha una vita utile di 15 anni, ma alla fine di questa vita utile non è che sia necessariamente da smontare perché non produce più corrente. Okay? No, certo, potrebbe durare di più, ce ne sono già in giro che durano da più tempo. Esattamente, magari con livelli di efficienza inferiori, quindi non è neanche detto che questi pannelli si debbano poi effettivamente togliere, a meno che non ci sono dei vincoli dal punto di vista autorizzativo. Comunque sia, le aziende che producono e importano pannelli fotovoltaici ora devono anche occuparsi della corretta gestione dei moduli a fine vita, insomma, quando finiscono il loro ciclo. Questo dal 1 luglio. Questo dal 1 luglio, ripeto, in questo momento attraverso una dichiarazione di questi produttori, una dichiarazione nel quale loro attestano l'adesione a un sistema che può farsi carico del riciclo di questi prodotti. Un sistema come ad esempio il vostro consorzio? A che condizioni si mette d'accordo con voi? Ma allora, diciamo... Con voi o con altri, poi dopo ciascuno sceglierà il suo consorzio di riferimento. Adesso noi parliamo con lei, quindi parliamo di Ecoped. Assolutamente, ma cominciamo col dire in che cosa consiste, se vuole, no? Il riciclo del pannello. Il pannello attualmente è costituito in massima parte da vetro, alluminio e materiale plastico, dopodiché ci sono i materiali che costituiscono la cella, che hanno diverse tipologie, no? Sono di diverse tipologie, dal silicio, che è quello più comune. Quello che il consorzio fa è esattamente come fa per tutte le apparecchiature professionali, prende un accordo con il produttore, dopo aver fatto evidentemente un preventivo di spesa che varia in funzione del quantitativo da ritirare e del luogo nel quale questo quantitativo è presente, e dopo aver fatto, diciamo, questo preventivo, dopo aver preso questi accordi con il produttore, cura il trasporto con mezzi autorizzati di questi rifiuti fino a delle aree di stoccaggio intermedie disposte in tutta Italia. Noi oggi disponiamo di circa una quarantina di aree di stoccaggio in tutta Italia dove andiamo a stoccare rifiuti elettrici, pile, accumulatori e adesso anche pannelli fotovoltaici. Dopodiché i pannelli fotovoltaici vengono trattati negli impianti nei quali oggi trattiamo i RAE. Oggi il trattamento dei RAE è in gran parte automatizzato con macchine che smontano in maniera semiautomatica le apparecchiature elettriche. Nel caso del pannello fotovoltaico oggi lo smontaggio avviene ancora manualmente e quindi andiamo a recuperare l'alluminio, andiamo a recuperare il vetro, andiamo a recuperare il materiale plastico, quindi livelli di recupero alti, elevati. Sì. Quindi questo è quello che facciamo. Dal punto di vista delle regole di finanziamento di questo sistema, direi che questi sono, a mio parere, però è un mio parere, però sono uno dei anelli deboli dell'attuale normativa. È bene fare una premessa: il pannello fotovoltaico sta per entrare all'interno del campo di applicazione della direttiva RAE. Questo perché lo dico? Perché nella direttiva RAE sta per rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, che nasce in Europa, poi viene recepita in Italia, nella direttiva si parla sempre di regole di finanziamento. In quella direttiva le regole di finanziamento sono i rifiuti che si generano ogni anno di una tipologia di apparecchiatura, vengono gestiti e finanziati, la gestione viene finanziata dai produttori che in quell'anno sono presenti. Quindi mi spiego meglio: per le apparecchiature elettriche che nel 2012 diventano rifiuti elettrici, il costo della gestione di questi rifiuti è a carico dei produttori che sono presenti sul mercato nel 2012. Okay. Quindi la regola è semplice ed è chiara. Nel sistema fotovoltaico, per come è concepito oggi, e quindi in assenza dell'aggiornamento della direttiva, che appunto includerà i fotovoltaici all'interno della direttiva stessa, queste regole di finanziamento non sono assolutamente chiare, no? Il quarto conto energia dice che il produttore deve rilasciare un certificato di adesione a un consorzio che garantirà, a cura del produttore, il riciclo del fotovoltaico, il riciclo del pannello, no? Sì. Però cosa vuol dire a cura non è certamente definito, quindi le regole di finanziamento non sono chiare. Oggi come oggi ci sono diverse scuole di pensiero, per cui una scuola è quella che sostiene che il produttore debba pagare oggi per il pannello che sta mettendo sul mercato oggi, anche se questo pannello diventerà forse rifiuto tra 20 anni, ha dei costi che tra 20 anni o tra 15 anni sfido chiunque a sapere quali saranno. Ma sì, dai, con tutti gli studi che possiamo fare sarà assolutamente, non so, vogliamo metterci il rischio cambio, ad esempio, no? Se non vogliamo parlare del rischio materie prime, no? Per dire, quindi i costi non sono assolutamente certi, i costi che avranno tra 15 anni, pertanto questa scuola di pensiero chiede oggi ai produttori di pagare in funzione dell'immesso sul mercato. Questo determina, a fronte di grandissime incertezze di costo di riciclo, un costo sicuro per il produttore che oggi sta lavorando. C'è poi un'altra scuola di pensiero, che è quella che personalmente ritengo più equa in questa fase nella quale le regole non sono chiare. E in attesa di quella direttiva famosa, esatto, che diceva prima. In attesa che la direttiva RAE recepisca il pannello fotovoltaico e quindi si cominci a parlare tutti la stessa lingua in termini di chi paga, okay? Questa seconda scuola di pensiero, che è quella che noi abbiamo abbracciato, dice: io come consorzio ti garantisco il riciclo fatto bene, il riciclo con ottime percentuali di recupero, il riciclo con mezzi autorizzati, ti faccio un preventivo in maniera tale che tu sai a che cosa vai incontro, poi assolutamente sei libero di utilizzare o meno il servizio del consorzio in questo senso, ma paghi solo per il pannello che va veramente a fine vita. quindi essenzialmente per un pannello installato nel 2010 probabilmente il produttore dovrà pagare la sua, diciamo, garanzia, no, sul pannello, quindi il pannello che si guasta, il pannello che si danneggia a causa di un evento atmosferico e via dicendo. Quindi capisce come ragioniamo su cose certe. Oggi il costo che il consorzio sostiene è certo e questo costo va sul produttore, ma anche questo costo è certo, no? Quindi, ma è di importo assolutamente inferiore rispetto al costo che il produttore sosterrebbe se dovesse pagare per tutto l'immesso sul mercato. Non certo, più per tutti. Un rapporto di 1 a 100 probabilmente, che è il tasso di ritorno che oggi c'è sui pannelli venduti in data odierna. Allora, ho un po' di questioni da porle. La prima, magari non sono stato chiaro, però... No, io direi di sì. Poi se gli ascoltatori vorranno, le scriveranno e contesteranno o chiederanno chiarimenti. Anzi, scrivono alla trasmissione l'altropianeta@radio24.it. Noi le giriamo tutte le domande. Okay. C'entrano qualcosa gli incentivi di cui un privato ha goduto per installare questi pannelli? Ma allora, il decreto diciamo, dello sviluppo economico, del Ministero dello Sviluppo Economico dice per avere questi incentivi oggi il pannello deve giungere da un produttore che dichiari la sua adesione al consorzio. Mi scuso se lo ripeto, ma essenzialmente questo è quello che dice, poi non lascio troppo spazio all'interpretazione da questo punto di vista. Chi ha installato dei pannelli negli anni precedenti, per lui vigono le stesse regole che sono in vigore per tutti coloro che detengono un rifiuto. Quindi se un rifiuto ha un costo, nello sbarazzarsi di questo rifiuto con tutte le regole che dobbiamo rispettare, per sbarazzarsi di questo rifiuto bisogna pagare. Nel caso in cui questo rifiuto invece ha un valore, con tutte le regole legali e ambientali che dobbiamo rispettare, per sbarazzarsi di questo rifiuto si ha un ricavo. Il 1° luglio sarà discriminante in questo. Chi li aveva prima deve trattarli come un rifiuto che ha in casa sua e che deve smaltire a sue spese. Sì. A differenza dei RAE, perché questo è un sistema che ormai conosciamo molto meglio perché è in funzione da un po' più tempo e ne abbiamo parlato spesso, nonostante tutto dal 1° luglio in avanti non c'è l'uno contro uno. No, non è previsto. Non è previsto. Uno, mentre invece l'inserimento nella direttiva RAE è per quello che io auspico che vengano inseriti all'interno di una direttiva che ha già chiarito queste cose. Ad esempio l'inserimento nella direttiva RAE ha come conseguenza non solo un chiarimento sulle regole di finanziamento, ma anche il fatto che possa essere in vigore l'uno contro uno. Quindi auspicabilmente ci sarà, però non è detto. Sì, vale, dico subito, la direttiva RAE a livello europeo è arrivata al traguardo, nel senso che in questi giorni si sta definendo le ultime cose. Dopodiché ci saranno 18 mesi per l'Italia per recepirla. E quindi si auspica un recepimento di questa direttiva entro la fine del 2013. In questi 18 mesi però a venire la situazione resta un po' questa più vaga e un pochino più da definire di cui diceva prima. Un po' più vaga, quindi è bene a mio parere, ecco, in maniera molto... Tanto per aggiungere, no, un problema al fotovoltaico, come se avesse ancora bisogno di vaghezza. Esatto, perché da una parte magari togliamo, da una parte viene tolto l'incentivo, dall'altro al produttore si aggiunge un costo certo che è quello del riciclo, ma un costo certo oggi per un riciclo che chissà quando avverrà e chissà con quali costi, quindi dobbiamo a mio parere stare attenti a non penalizzare questa bella filiera che dà origine a energia sfruttando l'energia solare, quindi anche dal punto di vista concettuale è molto bella e dobbiamo stare attenti a non penalizzarla troppo. Anche da qui la scelta del consorzio eticamente di utilizzare la formula del pay for use. L'ultima cosa, lunga vita al consorzio Ecoped, ma se voi tra 20 anni, 30 anni non ci siete più? Ma anche questo ad esempio fa parte delle regole che all'interno del sistema RAE vengono normate, perché lei ha citato questo caso, ma citiamo l'esempio che il produttore tra 20 anni o 30 anni non ci sia più. Quindi andiamo avanti sul suo di esempio. se tra 20 anni e 30 anni non ci siamo più, cosa che potrà sempre avvenire, tutti i produttori che nel frattempo hanno versato in funzione dell'immesso sul mercato avranno messo all'interno del consorzio una bella quantità di soldi e se la perderanno, giusto? Eh sì. Mentre invece in questo modo non mettono assolutamente nulla. E il produttore, se tra 20 anni e 30 anni il consorzio ci sarà ancora e il produttore avrà scelto tra 20 anni e 30 anni di essere ancora insieme al consorzio, ecco che il consorzio, in virtù dei contratti esistenti con i produttori, cose che ci sono, di queste convenzioni, ecco che il consorzio si obbliga ad andare a fare il ritiro. Giuliano Maddalena, direttore consorzi Ecoped Ridomus, ha visto che poi alla fine un quarto d'ora c'è stato quasi stretto. Grazie per essere stato di nuovo con noi. Adesso abbiamo lo spazio per la viabilità. L'altro pianeta prosegue subito dopo. L'altro pianeta. Dopo le informazioni sul traffico, ecco di nuovo l'altro pianeta. Come avevamo anticipato, adesso è il momento di sentire quali strabilianti dati sono arrivati dal settore del fotovoltaico. Ne abbiamo parlato con Francesca Sabatini, settore energia di Confartigianato. Partendo dall'analisi dei dati, sicuramente si può dire un elemento particolarmente rilevante che è accaduto a febbraio, ovvero il sorpasso storico, diciamo, del fotovoltaico rispetto all'eolico, diventando così la prima fonte energetica rinnovabile d'Italia, ad eccezione ovviamente dell'idroelettrico. Il divario che a maggio oltretutto è stato incrementato, tant'è vero che la produzione di fotovoltaico supera del 26% i gigawattora prodotti dall'eolico, che sono pari a 11.000. Ma che dati sono? Quanto sono importanti, diciamo, per l'Italia? Diamo contezza di questi dati. Le faccio un esempio: la produzione di energia elettrica da fotovoltaico su base annua, questa di maggio 2012, equivale al consumo di energia elettrica delle famiglie di tutto il sud Italia, quindi per darle un valore di contezza e di importanza di questi dati. Nonostante però lo sviluppo, l'implementazione delle fonti rinnovabili e delle serre in generale, un dato credo su cui riflettere è il seguente: il fotovoltaico rappresenta il 26% circa della produzione energetica italiana, contro il 73% del termico. Questo dà l'indicazione di dove la strategia energetica nazionale deve tendere nei prossimi anni per ottenere un mix energetico compatibile ed equilibrato. Tutto questo ovviamente ha dei risvolti positivi sulle imprese e sull'occupazione. Anche questo avete studiato, no? Certamente. Pensiamo ad esempio il numero di impianti entrati in esercizio nell'arco di quest'anno, 174.000. Numero di impianti che è raddoppiato nel corso di un unico anno. Creazione e occupazione. Prendiamo ad esempio il sistema delle costruzioni. Sappiamo tutti che in questo momento vive una profonda crisi. Se un settore che perde 100.000 occupati all'anno, un decremento del 5,2%, nonostante questo, nel settore dell'installazione nel 2011 abbiamo registrato una crescita dell'occupazione di quasi il 12% su base annua. Questo che cosa ha portato? Crescita di nuove imprese. Imprese legate alla green economy crescono in Italia e solo nel primo trimestre 2012 registriamo 92.000 imprese potenzialmente interessate a questo settore. Dinamica che si evolve, quindi abbiamo una evoluzione delle imprese. Facciamo un esempio: tra il primo trimestre 2009 e il trimestre 2012 abbiamo visto che il cluster delle imprese potenzialmente interessate è cresciuto del 10%. Dato ancora più significativo nel mezzogiorno, in cui si registra una crescita del 12%, ben 4 punti in più rispetto alle classiche aree imprenditoriali del nord-ovest e del nord-est. E però qua iniziano anche le dolenti note di come si guarda a questo settore da parte del legislatore, per esempio. Esatto, secondo Confartigianato occorre lavorare per collocare la politica in materia energetica all'interno della direttiva tracciata dall'Unione Europea, così come delineato dalla famosissima direttiva 2020, di cui tutti parlano ma poi concretamente non è spesso collocata nella politica italiana, e occorre seguire la roadmap del 2050. Dobbiamo lavorare in questa direzione e soprattutto non dobbiamo confondere promozione e sostegno con aggravio delle tariffe. Occorre ricordare che troppo spesso non si ha un'allocazione corretta delle risorse economiche. Le faccio un esempio: La 3 è la componente che sostiene gli impianti fotovoltaici economicamente, sì, ma grava il 19% sui clienti domestici, quasi il 40% sui clienti in bassa tensione, soltanto il 7% sui clienti in alta e altissima, quindi i grandissimi impianti. Noi spingiamo sempre e da tempo su misure di perequazione che siano eque, eliminando i benefici a favore dei pochi. In questo l'auspicio è di correggere il tiro dell'attuale decreto crescita, tanto noto e tanto discusso in questi giorni, approvato lo scorso 15 giugno, che sul fronte della fiscalità energetica, a nostro avviso, va ad acuire gli attuali equilibri, lasciando la copertura degli oneri esclusivamente in capo al sistema imprenditoriale della micro e piccola impresa a favore degli energivori. Tempi buoni, ma difficili insieme per il fotovoltaico, tempi altrettanto difficili in generale per l'efficienza energetica nel nostro paese. Maurizio Melis con il suo Mr. Kilowatt. È uno degli strumenti che ha funzionato meglio, parliamo delle detrazioni fiscali del 55% per le riqualificazioni energetiche. Hanno migliorato l'efficienza delle case di molti italiani, hanno contribuito a sviluppare un comparto edile più avanzato e dulcis in fundo non sono costate praticamente nulla alle casse dello Stato. C'è chi dice che addirittura è stata un'operazione in attivo. Qualità che evidentemente non sono piaciute e non sappiamo cos'altro dire al governo e in particolare al Ministero dello Sviluppo Economico, che su questa materia è in forte contrasto con quello dell'ambiente. Parliamo dell'innalzamento dal 36 al 50% delle detrazioni fiscali per la ristrutturazione degli edifici. Misura di per sé utile a far rialzare la testa a un settore in grande crisi come quello edilizio, ma disastrosa per il processo di efficientamento energetico dell'edilizia nel paese, soprattutto se, come da intenzioni del governo, le detrazioni per efficienza energetica verranno anche esse portate al 50%, questa volta riducendole. Il messaggio è chiaro, la qualità in edilizia non paga. Se le cose non cambiano, operazioni di pura speculazione riceveranno lo stesso trattamento di ristrutturazioni che seguono i più illuminati e avanzati criteri ambientali. E dopo tante parole sull'innovazione, dopo tanto insistere sulla qualità e la necessità di trasformare un comparto in gran parte arretrato, come quello edile, proprio per dargli un futuro, invece si appiattisce tutto lanciando esattamente il messaggio opposto. Marco Carminati con Articolo 9 invece ci porta alla scoperta di nuovi territori e bellezze del nostro paese da conservare. Buongiorno da Marco Carminati, oggi parliamo del nostro patrimonio culturale italiano, ricchissimo come tutti sanno e oneroso nel mantenimento. Infatti da tanto tempo si discute su come fare a far fronte alla manutenzione, alla valorizzazione di questo patrimonio e il più delle volte si pensa che siano proprio i privati quelli che possono dare una mano a questo patrimonio perché appunto continua ad esistere, continua a vivere, continua ad essere uno dei motivi di attrazione per l'economia del turismo e della cultura nel nostro paese. C'è chi queste cose le sa da anni, in particolare la Consulta per la valorizzazione dei beni artistici e culturali di Torino, che è un'associazione molto importante che è qui rappresentata con noi dall'architetto Mario Verdun. Buongiorno architetto. Buongiorno. Ecco, lei fa parte di questa associazione, è consigliere, è tra i fondatori della Consulta, quindi ha molta esperienza in questo campo. Ecco, intanto ci dica che cos'è questa Consulta per la valorizzazione dei beni artistici. È un'associazione di 31 aziende, oggi erano 12 all'inizio, 25 anni fa, che tende a restaurare, valorizzare e fruire in maniera ottimale i beni culturali della città. Bisogna fare un passo indietro, 25 anni fa la città era in uno stato di degrado molto evidente, non c'era grande sensibilità per la tutela e la valorizzazione, non esistevano le fondazioni bancarie, poca collaborazione tra pubblico e privato. Si decise un gruppo di pionieri, se vogliamo così chiamarli, di alcune aziende torinesi, di mettere assieme risorse intellettuali e anche economiche per avere un approccio pragmatico alla conservazione dei beni culturali e alla loro valorizzazione. Il segreto del nostro successo credo che sia stato proprio questo approccio flessibile, con grande rapporto con gli enti pubblici e con focalizzazione su progetti specifici. Ecco, in particolare che cosa avete affrontato? Se c'è qualche esempio. Noi abbiamo affrontato tre temi fondamentali, sì, che si sono sviluppati nel corso dei 25 anni. Inizialmente il restauro degli edifici che stavano veramente deperendo, brutte facciate, brutti monumenti, e questo è stato il primo avvio. Sì. Poi l'abbiamo steso il nostro intervento alla valorizzazione, quindi abbiamo fatto una serie di interventi che aggiungevano qualche cosa oltre al restauro. Cioè, abbiamo donato una cancellata storica, abbiamo piantato 1800 piante nella palazzina di Stupinigi, abbiamo riaperto una pinacoteca chiusa, insomma in questo tipo di lavori. E poi l'abbiamo ancora sviluppato alla promozione di questi interventi, sia di restauro che di valorizzazione, attraverso degli interventi che dessero una miglior fruizione per il pubblico. E se vuole le posso fare qualche esempio. Ecco, ce ne faccia uno o due, quelli che le stanno più a cuore magari. Ma i più interessanti sono stati, uno nel Museo del Cinema, nuova installazione interattiva, certo, Risorgimento, sistemi di audio guide, ma quello che ritengo forse più significativo dei 42 interventi che abbiamo realizzato dal punto di vista dell'interesse è questo della Biblioteca Reale, cioè aver costruito una sala, uno scrigno ad alta sicurezza per la conservazione dei disegni di Leonardo e del Codice del Volo, che sono ospitati nella Biblioteca Reale, che è un'istituzione non museale ma scientifica, quindi anche di difficile visibilità, di accesso. Abbiamo realizzato una piccola struttura che tenderemo a ampliare in futuro, in cui è possibile conservare in maniera ottimale questi documenti, ma renderli anche fruibili al pubblico in certe circostanze. E questo riteniamo che sia appunto un intervento che assomma tutte e tre le caratteristiche di restauro, di valorizzazione e di promozione, perché abbiamo fatto mostre in cui è stato possibile esporre, oltre che disegni di Leonardo, gli altri alcuni esempi di quella migliaia di documenti che sono conservati, certo, alla biblioteca. Certo. Senta, e naturalmente, molto in sintesi, questa è una ricetta che voi avete sperimentato funzionante, che se venissero altre città, altre realtà, a chiedervi qual è il segreto, che cosa direste in poche parole, che cosa si può fare per applicare in altre realtà la ricetta della consulta? Forse un approccio culturale molto molto molto flessibile e molto determinato. Noi, a Torino sono nate tante cose, l'automobile, la radio, il cinema, la moda, eccetera, e tutte cose che sono sparite da Torino. Invece quello che non siamo riusciti forse a fare come consulta è che abbiamo realizzato un'attività in loco, sono venuti da molte parti d'Italia a parlarci su come fare, ma non è poi nato nulla fuori, cioè non siamo riusciti a esportarlo, è colpa nostra, voglio dire, noi il modello l'abbiamo ben chiaro, l'abbiamo presentato anche molto bene, ma è una cosa che non è riuscita a svilupparsi in altre regioni. Qualche piccola realtà a livello regionale c'è, ma insomma, ma non di dimensione come la nostra. Ma il segreto è questa capacità di lavorare con gli enti pubblici. C'è sempre stata una forte determinazione nel collaborare. Noi non vogliamo sostituirci alle professionalità di chi ha più titolo come noi, tipo nelle soprintendenze, ma siamo in grado invece di portare alcune competenze specifiche in campi di comunicazione, marketing, gestione di risorse umane, eccetera, che derivano proprio dalle specificità delle nostre aziende. Ecco, quindi è un rapporto di collaborazione. Ecco, architetto, la ricetta per me è chiara da quello che lei dice: bisogna remare tutti dalla stessa parte, cioè istituzioni, privati, enti preposti, il mondo della città, il mondo civile, tutti verso la meta che è la promozione culturale e anche economica di una città come Torino. Io ringrazio moltissimo l'architetto Verdan, grazie della partecipazione. Sì, immagini, grazie a voi. Una buona giornata a tutti. È tutto per questa puntata dell'Altro Pianeta, grazie per averci seguito. Dalla prossima puntata inizia l'Altro Pianeta speciale estivo, quindi mezz'ora interamente dedicata allo stesso tema. L'appuntamento è per la stessa ora, quindi alle 15 di sabato prossimo.